America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Il primo G20 da quando di fatto il G20 è nato, nel quale l'Italia non è in difficoltà e non è il sorvegliato speciale, perché gli ultimi G20, soprattutto quelli degli ultimi 3-4 anni, sono stati G20 nei quali l'Italia era il sorvegliato speciale. Oggi non lo siamo più, questo è un motivo di grande orgoglio dovuto alle scelte fatte in questi anni, in questi mesi, e vorrei che tutti fossero consapevoli dell'importanza e degli effetti benefici che ci può consentire di avere il fatto di essere un paese uscito dalla categoria dei sorvegliati speciali. Il presidente del Consiglio Enrico Letta è a New York, è arrivato ieri sera, ha partecipato al grande ricevimento di apertura dell'Assemblea dei lavori per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per questo 2013, il ricevimento offerto dal presidente Barack Obama, e direi è il calcio d'avvio di queste riunioni, dove in modo informale capi di Stato, capi di governo, ministri, ministri degli esteri possono incontrarsi e cominciare a dialogare in modo ravvicinato su alcune delle tematiche aperte sia sul piano multilaterale che su quello bilaterale. Ecco, ma la missione di Enrico Letta negli Stati Uniti, a New York, non è soltanto politica, è una missione anche economica, a partire proprio da questa mattina. Enrico Letta parlerà al Council on Foreign Relations fra poco, fra un quarto d'ora, fra 20 minuti, darà un suo quadro di quella che è la situazione italiana, ricorderà quali sono state le iniziative del suo governo, soprattutto l'ultima iniziativa, quella annunciata la settimana scorsa, Destinazione Italia, 50 misure per poter agevolare l'investimento diretto negli Stati Uniti. Si rivolgerà tra l'altro al Council proprio a un parterre di banchieri, di investitori, di uomini d'affari, non soltanto di scienziati politici o di ex politici. E dunque il messaggio sarà anche economico. Devo dire, l'attentato a Nairobi è come un grande nuvolone scuro che si aggira sopra questi lavori dell'Assemblea Generale, già iniziati in modo informale ieri con molti incontri preliminari. E dunque, per potervi dare un quadro sul piano politico, ho avuto ai microfoni di America 24 il ministro degli esteri Emma Bonino. Vi faccio ascoltare questa registrazione che ho fatto ieri pomeriggio in una splendida giornata di sole nel Giardino delle Rose del Palazzo di Vetro, un giardino che è subito a ridosso dell'East River. America 24. Ministro, partiamo con la questione siriana. Le armi chimiche, ci sarà il disarmo? Ci sarà una risoluzione? Questo credo ancora non lo so bene. Una risoluzione sì, i contenuti non sono ancora chiari, credo si stia negoziando. Credo però che se si vuole essere seri sull'applicazione della Convenzione e quindi la distruzione delle armi nucleari che prenderà tempo, vuol dire che deve avviarsi un processo diplomatico, una specie di cessate il fuoco, perché altrimenti non è proprio operabile. In questo eventuale cessate il fuoco io spero anche che riusciamo a inserire la priorità dell'umanitario, perché in tutti questi anni noi non siamo riusciti, per ragioni di mancanza di sicurezza, ad alleviare le sofferenze di chi è rimasto in Siria. Quindi mi auguro che questi tre track, come si dice, possano andare in modo convergente. Ma è tutto ancora da lavorare. Certo, siamo a metà del lago. Qualcuno parla anche della necessità di creare poi un inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, responsabile e coordinatore di questa missione. C'è qualche nome? Lei avrebbe qualche nome da suggerire? Non so neanche che se allo stato attuale possa essere una buona idea, perché bisogna vedere qual è il mandato, con quali risorse. Quindi mi sembra abbastanza prematuro. Io sono più per andare passo a passo e vedere che poi non venga magari designato qualcuno senza le strutture necessarie e quindi lasciato un po' allo sbando. Parliamo di Iran. Ecco, il nucleare, circolate indiscrezioni secondo cui Teheran poteva in qualche modo fare un passo indietro sui suoi progetti in cambio di una eliminazione o diminuzione delle sanzioni. Lei ne ha parlato? No, non abbiamo affrontato questo tema specifico con il ministro Zarif, perché davvero abbiamo avuto e sulla questione chimica e su alcune interessanti cose bilaterali, ma sull'Afghanistan, perché noi a Herat, dove abbiamo le nostre forze più grandi, abbiamo avuto una cooperazione molto positiva ed efficace con gli iraniani. Ecco, ci sono due aspetti, diciamo, collegati indirettamente: da una parte la tragedia dell'attentato a Nairobi e dall'altra le polemiche fra il Kenya e la Corte Internazionale dell'Aia. Cominciamo dall'attentato. Che notizie ci sono? Lei ha una sensazione, qualcuno dice che forse può essere Al-Qaeda dietro questo attentato. C'è anche l'altra lettura che forse mi trova più convincente, ma sarà tutto da vedere, perché può anche essere invece corretta e giusta la rivendicazione che hanno fatto gli Shabab. Se questa è la versione, è chiaro che questo implica un tirarsi dietro dell'intera questione somala, cosa che è per noi molto importante. Avremo una riunione che copresiedo qui proprio sulla IGAD, sulla situazione somala, ed è chiaro che se questo è un avvertimento degli Shabab ai kenioti, non vi occupate della Somalia, questo porta evidentemente un cambio nella dimensione regionale che stavamo cercando di spingere. Ma il problema con la Corte Internazionale dell'Aia, sì, proprio col Kenya e l'Africa, in qualche modo ha fatto cerchio attorno alla posizione kenyota, e cioè che la Corte sta, diciamo, forse abusando un po' troppo, dal loro punto di vista, abusando un po' troppo del suo potere. Già gli Stati Uniti non hanno aderito alla Corte Internazionale dell'Aia, Russia, Cina, se anche l'Africa dovesse uscire, non c'è forse qualcosa di sbagliato nel modo in cui è impostata questa Corte, se i grandi non ci stanno? I grandi non ci stanno da sempre per le note ragioni, devo dire. Noi abbiamo sempre pensato e sperato che intanto metterla in funzione, tant'è vero che poi quando in alcune occasioni non sanno più che fare è il Consiglio di Sicurezza dei grandi che deferisce i casi alla Corte. E la questione africana mi preoccupa moltissimo, anche se siamo di fronte a un paradosso, perché è vero che la stragrande maggioranza dei casi riguardano, diciamo, africani, ma li riguardano per denuncia degli stessi paesi africani che hanno chiesto alla Corte di intervenire, quindi è un po' paradossale, diciamo. In Africa quasi mai la Corte ha agito moto proprio, quasi sempre sul Sudan ha agito per mandato del Consiglio di Sicurezza e sugli altri casi ha agito per richiesta e mandato dei governi africani stessi, mi riferisco, che ne so, al Congo o ad altri. Quindi questo paradosso, io parteciperò alla conferenza stampa, questo paradosso io credo valga la pena che sia un po' spiegato. E certamente se il Kenya, diciamo, si ritira dalla Corte non è tanto un problema giuridico, perché ci metterà molto tempo secondo lo statuto, ma è un segnale politico che troverei preoccupante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatevi i vostri commenti su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, dell'ONU si dice molte parole, molto fumo, poco arrosto, molte chiacchiere, molte parole, poca sostanza. Spero che questo non sia il caso, sono riunioni queste che erano partite molto bene con l'idea di poter portare la Siria al processo di disarmo del suo arsenale chimico. Purtroppo poi sono state oscurate, come vi dicevo, da questo attacco a Nairobi, questo attacco terroristico di fondamentalisti islamici contro un mall, contro un grande centro acquisti dove c'erano una gran quantità di giovani. Il numero di morti si sta ancora contando, ma proprio questo progresso sul fronte siriano, una certa apertura dal punto di vista iraniano, come del resto ci diceva il ministro degli esteri Bonino, ci consentano di sperare che questa volta non ci siano soltanto parole. E dunque canzone del giorno degli Extreme, More Than Words, più che semplici parole. Are you more than words is all you have to make it real, then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani, goodbye and get going.